Guardi, che adesso io glielo dico, non lo dico in giro. Sgarbi una volta, durante una diretta televisiva, ha fatto una scorreggia spaventosa, hanno fermato subito la trasmissione, perché ormai appena entra Sgarbi fermano la trasmissione e non la fanno più. È una cosa, guarda. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oggi c'è lo sciopero dei mezzi pubblici, la gente incazzata, ma io me ne fotto, ho scaricato 7 podcast della zanzara e me li sparo tutti quanti in culo allo sciopero, siamo proprio al top. Sto andando dalla mia ragazza, ma c'è la zanzara, non voglio arrivare, non voglio arrivare! Zanzare, Uakbar, a zanzare Uakbar. Avviso, avviso ai naviganti, avviso ai naviganti, avviso ai naviganti. Questa trasmissione è fortemente antivegana, accoglie tutti ma è fortemente antivegana. Lo dico, Parenzo, per un motivo molto semplice: non vogliamo insistere sempre sui vegani, ma alla fine le fissazioni sono le fissazioni. Come sai, io vivo di fissazioni, no? Vivo di ossessioni, sì, possiamo dire, di ossessioni. Corretto, in questo corretto. Periodo, no, come corretto adesso? No, finora è corretto, tutto corretto. Allora, io vivo di ossessioni, in questo periodo la mia ossessione, tra tante altre ovviamente, sì, c'è anche l'ossessione dei vegani, che ci posso, sì, fare, cioè, vedo tutto vegano, ovunque vedo vegani, no? mi giro, mi guardo intorno di un vegano, quando qualcuno mi dice sono vegano, non so perché, ho un moto di sorpresa, cioè, sono quasi spaventato. Mi hanno mandato una foto che è praticamente definitiva, no? Per chiarire un po' il mio rapporto con il mondo animalista, con il mondo vegano, una foto in cui c'è un bambino che muore di fame, bambino africano, no? Sì, nero, sì, scheletrico, sì. E accanto un'altra foto, la foto di un cane, sai, con uno di quei palloncini tutti intorno, eccetera, mamma, con un mia, cappello del compleanno e una serie di torte e di dolci intorno, capito? E sotto c'è scritto: forse c'è qualcosa che non va. Forse. Vuoi sapere adesso o è troppo presto i 5 motivi validi per cui non bisogna depilarsi? Dopo, dopo, forse dopo è ma meglio. Ma guarda, dopo è meglio, dopo sono, è meglio. Sì, dopo, dopo così. È meglio, dopo è meglio. Dopo, vogliamo, sì, iniziare con una frase di Brunetta? Vogliamo, sì, iniziare, ecco, con una frase di Brunettone? Una spruzzatina di politica, così giusto per dire che ci siamo. Ma proprio in piccolissime dosi, per in carità, piccole non sia dosi, mai troppo, per carità. In piccole dosi, una piccola frase di Brunetta che forse vive nell'iperuranio, no? E si illude di un mondo che non c'è più. Come ci ha detto ieri il maestro, il professore Vittorio Feltri, qui siamo ai minimi termini, siamo ormai alla Claire, caro Parenzo. E dispiace dirlo per tutti i militanti di Forza Italia, eccetera, ma siamo praticamente alla Claire. Beh, lo ha spiegato, diciamo, benissimo ieri sera il politologo con i serpenti sulla testa, il professor Otelma, ieri ha dettagliatamente, fai risentire quella, spiegato qual è la situazione politica, ha spiegato il quadro perfettamente, mi pare, allora, ieri sera. Tirando giù la Claire, Brunetta dice che, senti, perché è curioso, come sapete, Bertolaso, Meloni, eccetera, eccetera, sentiamo. Bertolaso è un leader vincente e su Roma non si torna indietro, disponibili al secondo turno a ricevere il voto della Meloni per Bertolaso sindaco. Cioè, siamo veramente nel campo della follia, no? Cioè, perché, per carità, ovviamente uno può sperare quello che vuole, però io ti dico qua, alle 18.39, che giorno è oggi? Il 18? Il 18 di marzo. 18 marzo. Segnatevi bene, marzo. Venerdì 18 marzo, 18.39. Se Bertolaso, con in campo la Meloni, naturalmente, arriva al secondo turno, arriva al secondo turno, lo faccio gratis. gratis. Te lo dico, lo posso scrivere qua, David? Attento. Gratis, se Bertolaso arriva al secondo turno, gratis. Quello che ho detto su, che non voglio ripetere, che non voglio di 200.000, cioè, gratis. Se Bertolaso arriva al secondo turno, con la Meloni in campo ovviamente, no, col centrodestra unito, adesso non mi fottete, non è che potete fare i furbi. Lo faccio, gratis. Gratis! Ma noi dobbiamo essere preoccupati per il fatto che la signora Michela Biancofiore, amica mia, l'abbraccio fortissimo, eccetera, vuole lasciare Forza Italia? E per quello c'è lo sciopero in tutta Italia. Tu dici che fa? Per quello? E lo sciopero bloccato tutto? Tu dici che hanno bloccato tutto per questo, diciamo. Dentro Forza Italia sono preoccupatissimi, dici. Ma no? Tu stai scherzando? C'è stato un blocco totale, la gente che fuggiva, il raccordo anulare. Io sono partito alle 3, in genere parto alle 4 e mezza. Oddio, oddio, la Meloni, la gente che correva, io vedevo la gente che si catapultava come dopo i terremoti fuori dai negozi, sì, urlando, sì, gente, sì, che si strappava i vestiti dicendo: oddio, la Biancofiore lascia Forza Italia, oddio, oddio. Dopodiché, amico mio, io vado ai pazzi, vado veramente al manicomio quando sento queste iniziative, perché c'è gente che non c'è niente da fare, sull'immigrazione ci fa i quattrini, ci fa i quattrini. Tu dirai è giusto, è normale che sia così, il Parenzo pensiero, no? Che è giusto, ha una sua legittimità, il fatto che legalmente tu dici la gente con l'immigrazione ci guadagna legalmente. Ci sono delle associazioni che bene. Lavorano, io l'ho sempre detto che gli immigrati danno lavoro, vabbè, non devono rubare, non attaccare il pippone adesso. Vabbè, avanti, allora, tutto esiste avanti, una cosa che si chiama Migrant Tour in viaggio per scoprire il mondo sotto casa. I quartieri multietnici ci mostrano quanto le migrazioni siano un fattore di arricchimento e trasformazione delle città europee, cioè praticamente con i soldi dell'Unione Europea, attenzione, con i soldi, cioè con i soldi nostri, ci sono delle associazioni che organizzano dei migrant tour, cioè portano, invece come i pellegrinaggi, no? Portano le persone in giro con gli autobus nei quartieri multietnici delle nostre città. Bellissimo, bellissimo. Senti Salvini, senti Salvini. La ruspa per i campi rom abusivi e non abusivi è l'unica soluzione possibile, però, altro che aiutarli. Due pedate nel culo, se vuoi stare qua, stai qua come tutti gli altri, altrimenti... Questa era sui campi rom, eh? Questa era sui campi rom, che comunque è importante, eh? Che comunque è importante. Senti. Il migrant tour. Una volta si faceva il puttan tour quando andava in giro, ma non pagava l'Unione Europea. Uno il sabato sera andava in giro con gli amici e si faceva due ghignate. Allora, meglio il puttan tour oppure il migrant classe tour? Classe politica, classe dirigente. Classe dirigente è il titolo di questa rubrica. È meglio il migrant tour o il puttan tour? Questa è la grande questione posta da Salvini. Posta da Salvini, mica l'ho posta io. Classe dirigente, ho detto. Oh, a mio parere la Meloni parte un po' male, però, parte un po' male. Quando dice tra Raggi e Giachetti voterei Raggi. Ora io dico, amica mia. Vabbè, questo è normale. Sì, ma a parte che non è normale perché. Cioè, è normale perché senza attaccare per inculare tutte Renzi, politiche, d'accordo? Esatto, sì, esatto. Sì, per fregare Renzi, Giachetti è molto dalla semplice parte del governo. Molto semplice. Sì, però tu sei candidata, non è che puoi dire tra Raggi e Giachetti. E pensa in questo modo anche di intercettare il voto non di opinione dei 5 Stelle, capito? Sì, d'accordo, ma io hai fatto un'analisi. Hai fatto piccolo ragionamentino politico. No, ma bravo. Noi crediamo che, come dice lì quel deme, quello, se ripenso chi all'intervento dice di ieri, di quel demente di Otelma, di quel, sì, si fai risentire le banalità che ha detto ieri. Allora Di neanche Mino, aveva letto bene i giornali, Mino, perché non Parenzo, si ricordava neanche Parenzo ti sta dando del demente. Vabbè, questo, chiedo scusa ai dementi. Meloni: sono molto amica di Roberto Giachetti, siamo amici da tanti anni, è una persona a cui voglio molto bene, però davvero non riuscirei in nessun modo a sostenere il governo Renzi e i suoi rappresentanti. Quindi voterebbe la Raggi? Sì, tra i due sì. Lo dice anche sottovoce, tra i due sì, tra i due sì. Cioè, tu stai appena iniziando una campagna elettorale, devi dire vinco io, no? Cioè, vinco, certo, io, non è tra ma Raggi e Giachetti. La strategia è chiarissima. Sì, ma l'hai spiegata. Raggi, no, ma c'è di più. costruirà una campagna elettorale dicendo 5 Stelle e io siamo nuovi rispetto a Roma, all'amministrazione di Roma, quelli sono mafia capitale, cioè il racconto, vabbè, sì, certo, lo storytelling politico che costruiranno. Tu hai detto storytelling alle 18.44? Sì, certo. Alle 18.44. C'è un bellissimo libro di Christian Salmon che si chiama Storytelling. Christian Salmon, ti consiglio La politica nell'era dello storytelling, un libro che sto leggendo, editore Fazzi Editore. Azzittitelo, comprate. Azzittitelo. Lo sbrocco di Gasparri dagli amici di Cusano Campus. Come sai, caro Parenzo, Gasparri ha fatto un tweet in cui ha commesso un errore, lui dice, dello staff. L'echiesimo, la colpa è sempre dello staff, naturalmente. Sì, Salvini è colpa dello staff, Gasparri è colpa dello staff. Sì. Chiesimo la disponibilità. Poi l'ha anche sottolineato, credo, quel chiesimo. Chiesimo la disponibilità alla Meloni. Sì. Chiesimo. Senti come sbrocca Gasparrone, eh? C'è un'attenzione quasi morbosa nei confronti del suo tweet. Sì. Perché sono delle teste di cazzo incapaci di esistere, esistono solo nella misura in cui criticano me. Sono dei frustrati e dei tossici quelli che fanno queste critiche. Per cui che devo fare? Sistemerò le comunità terapeutiche con le quali ho tanti rapporti per assistere persone che devono uscire dalla droga. Adesso qua c'è uno, interroghiamoci sul titolo di studio e contratto dei collaboratori dello Stato. Questo semplice 8, Sanferlo, è una testa di cazzo, Sanferlo, che non scrive neanche il suo nome e cognome. Testa di cazzo, frustrati e tossici, capito? Testa di cazzo, frustrati e tossici. Il linguaggio normale. Quelli che criticano. Gasparri, peraltro, per un errore, devo dire, in questo caso, cioè, è un errore. L'ha presa bene, però, mi pare, no? Le critiche, dico, le prende bene. Ora, io vorrei farti sfogare un po' su Donna Assunta Almirante. No, lo so, signora che è un'anziana anziana, signora, per carità. Però fino a qualche giorno fa, anche da noi, andava a dire la Meloni, no, non è in grado di fare il sindaco, no, è una città difficile da amministrare, io voto Storace tutta la vita. Senti che dice adesso, senti, ti prego. Ti prego, senti. È una brava ragazza, non è che si può dire che sia, è una ragazza che è stata sempre poi di destra, non è un'avventuriera, diciamo, Quindi se si presenta, perché non votarla? Ma come, perché non votarla? Signora Assunta Almirante, lei è anche lucida di testa, cioè non si è rincoglionita nonostante l'età, ma l'età non c'entra niente. Alcuni vecchi sono molto più lucidi dei giovani, per carità. Però hai detto qualche giorno fa non era in grado. Voto Storace, adesso perché non votarla? Poi attacca Berlusconi. Berlusconi intanto anche in queste faccende che cosa gliene impiccia? Che si impiccia pure lui? E a me ha seccato, stappate che faccio, fa, che cosa fa? Pure dirigi pure chi si deve candidare o meno, fai la mamma, e come ti permette? Se quella non la vuole fare, che vuole fare l'una e l'altra, che c'entri tu? Io queste arroganze non sono piacevole, mi era venuto il desiderio di prendere il telefono e di dirglielo. Intanto continua la saga televisiva, e non solo televisiva ovviamente, sull'omicidio Varani, e c'è da notare, caro Parenzo, una frase pronunciata in un'intervista a Messaggero dal padre di Manuel Foffo, Walter, sì, Foffo, il quale ha detto una tragedia nella tragedia, vecchio mio, una tragedia nella tragedia, il quale ha detto: a noi Foffo, ascoltate bene, a noi, sì, Foffo non piacciono gli omosessuali ma le donne vere. Appunto. E mio figlio non è da meno. Tu una sai tragedia nella tragedia. Intorno a Manuel Foffo, studente di economia, 28 anni, figlio di un ristoratore, appunto, che si chiama Walter Foffo, ci sono ovviamente tutte le deposizioni in cui si dice che ha fatto anche del sesso orale con Manuel, con Marco Prato, eccetera, eccetera. Sin dall'inizio noi abbiamo chiesto all'avvocato: ma è gay o omosessuale? Lui ha detto: no, non è gay. Il padre dice: mio figlio non è gay. Prato lo ricattava con un video e ha aggiunto questa frase: a noi Foffo non piacciono gli omosessuali ma le donne vere, e mio figlio non è da meno. Io direi di partire. C'è anche un'altra notizia, che è questa, che è incredibile, perché l'Italia è così e da un certo punto di vista è irriformabile, cioè non c'è niente da fare, è tutto finito. Ad Avezzano i Rom hanno occupato una casa, una famiglia Rom ha occupato, sì, una casa, mentre un'altra famiglia, la famiglia Di Marco, lui dipendente di un'azienda edile, lei credo casalinga, sono usciti e lui era al lavoro, la moglie era uscita di casa, normale, per andare a lavorare anche lei in un'impresa di pulizia, prima di cena è rincasata con i figli e ha trovato dei rom di Avezzano che stavano rimontando una nuova porta al posto della loro. Ma siccome hanno dei figli non si può fare nulla, cioè praticamente una casa popolare occupata da una pazzesco famiglia, la famiglia di Marco, una famiglia di operai, arrivano i rom, pazzesco, sfondano la porta, si piazzano lì e siccome hanno un figlio non si può fare nulla. Ragazzi, ma di che stiamo paradossale, parlando? Paradossale, pazzesco. Basta di paradossale, pazzesco. Paracriminale. I tuoi amici rom. Ma che c'è da me? Uno che è un criminale, non è amico. Uno che dai commette un reato, dai, su. Claudio dai D'Avellino, tu e le cittadelle rom e il lavoro Claudio, pubblico e rom Claudio di Berlusconi. Beh, se ci fossero, probabilmente non ci sarebbero meno reati. Per questa a roba, parte che li controlleresti molto di più. Comunque, non discuto. Non rimedio discuto più con col vice Salvini di queste cose. Ma vai, col vice Salvini, no, non discuto più. Col vice Salvini, non discuto più. Al massimo, io sono il capo. A massimo sì, vabbè, posso essere vuoi, il capo col direttore della futura Radio Padania, Claudio non D'Avellino. Non discuto, ma neanche con Claudio, me ne frega nulla. No, con Claudio non me ne frega discutere un cazzo. Ma è legittimo, non me ne frega nulla di Claudio. Posso dire Claudio D'Avellino, Fabrizio da Roma, Donato da Bari, quello da Varese. Non me ne frega nulla. Claudio, vai. Da questa che isterica che si stava già agitando proprio. Ho chiamato vedi proprio per lui. Ecco, tu hai chiamato per lui perché? Che ti ha fatto? Perché che io l'ho chiamato. Ma subito che isterica gli dici? Gli dici subito che è isterica. Sì, perché, sì. Perché l'ho chiamato proprio per ieri sera sui rom. Io l'ho chiamato ma il 9 di aprile del 2015. Ma chiama la polizia, quando che chiami me? No, ti spiego anche perché ti ho chiamato. Io ti ho chiamato prima volta il 9 di aprile del 2015, poi mi ero promesso di non chiamarti più. Quando vabbè, adesso non è che ci ricordiamo il giorno del tuo ultimo intervento. Io, quando quell'imprenditore a Milano sparò tre persone nel tribunale, io lo chiamai per dire un buon inizio. Ah, bene, tu sei uno di quelli che ha detto è un buon inizio quando quello ha sparato in tribunale. Perfetto. Bravo, beh, adesso e te ne avanti pure. Sì, te ne avanti, vabbè, uno si può vantare degli omicidi, va bene, per carità. E dopo aver sentito Parenzo ieri sera sui rom, no? E dopo aver sentito questo, sì, ti do tre notizie. Dimmi. Tre. Tre anni fa si è ammazzato uno ad Alfonsine, sì, e si è impiccato. Ma che c'entra, scusa? No, ti dico questo. Il 16 di aprile, sì, il 16 di marzo di quest'anno, si è ammazzata la figlia a 18 anni perché si è ammazzato il padre. Sì. E oggi qua a Grotta Minardo si è ammazzato un altro commerciante. E allora Parenzo parla dei rom. E hai sentito come ha detto? È paradossale il fatto che quelli sono andati di là. State aspettando il sangue per strada. Ma chi? Chi sta aspettando il sangue per strada? Quelli, io dico che Parenzo ha vinto dopo un anno e mezzo. In che senso ha vinto? Ma cosa sta dicendo? Il parenzismo. Queste teste di cazzo nazional popolare, Renzi e quanto hanno vinto. Ma perché cosa sta non c'è dicendo più sangue per strada, è il sangue di chi muore. Ma non perché sangue non ho capito, tu vorresti il sangue di chi? Di Renzi? Che vorresti? No, non voglio il sangue di Renzi. E di chi? Però vorresti il sangue per strada? Ma tra gli imprenditori e i rom, si ammazzano gli imprenditori, hai sentito di qualche rom che si è ammazzato? Beh, allora? Ma che vuol dire? Qua, hanno vinto loro. Ma che vuol dire? Ma hanno vinto chi? Ma di che parla? Hanno vinto le teste di cazzo alla Parenzo. Ma perché? Perché dici? Perché? Te l'ho detto prima. Nel 2015, tre anni fa, dico bene, nel 2013. Ma tu stai citando un caso singolo, stai di una mettendo persona insieme il suicidio singolo degli imprenditori. Qui c'è il bollettino degli imprenditori suicidi quotidiani. Ma cosa c'entra con i rom? C'è un rom. Ma perché Renzo? Ma perché continua a non vuoi parlare con me? Ma io non ci voglio parlare con te. Ma perché non scusami, vuoi parlare? Scusami, scusami, con il catarro nel cervello come fai a esprimerti? E infatti si vedono i risultati. Siccome hai il catarro nel cervello, io non so riesci a non si connettono le sinapsi, capito? Per lavarti i denti che puzza di merda fuori di leccare capito culi. Non hai riesci capito? Il tuo spazzolino cos'è? Quello del bagno? Quello con non quello sciacquo? Non adesso che c'entra? Parenzo, fai la checchi stessa. Claudio D'Avellino, non ho capito. Non Claudio mi interessa il suo parere in alcun modo. Ma che c'entra? Quella per strada è sangue degli imprenditori. Ma che c'entra? E dei tuoi amici delle cooperative. Ma che c'entra i rom? Che ospitano i rifugiati, di cui solo il 3% ha diritto a stare qua. Io sono nato in Svizzera perché mio padre era migrante e non gli hanno dato la casa e 50 euro al giorno. Testa di cazzo! Scusa, il grande è quello degli imprenditori. Mi saluti a casa, Amen, amen. Mi saluti a amen casa. Quanto costano 2 ore e mezzo di zanzara, di pubblicità, traffico? Ma quanto costano? Avete rotto il cazzo? Quanto costano? 200.000 euro? Me le pago io. No, aspetta, 200.000 mi servono per cruciali. Cruciani, la città dei rom, non c'è bisogno che si chiami Romland, già c'è, si chiama Rom a Crucia. I rom vanno microcippati e controllati col GPS. E se Berlusconi non fosse fuori di sé e volesse ghettizzarli tutti? Ho avuto modo di provare all'autogrill il panino vegano. 7 euro di un cazzo. Giuseppe, già lo vedo fumante sulla brace, con i carboni ardenti e il grasso che si scioglie e alimenta i carboni. Ma la cosa più bella è che noi a Napoli ci mangiamo che i friarielli. Viva l'agnello! Eccoci qui, 800 24 00 24, riprendiamo caro Parenzo con Marco da Torino, vai Marco! Amici miei, buonasera, la mia domanda è questa: com'è possibile che una persona come Gasparri abbia ancora la facoltà di poter discutere dopo quello che fa? Cioè, basta. In che senso, scusa, non ha il diritto di scrivere su Twitter quello che vuole, non ho capito. Poi ha commesso un errore, lo hanno preso per il culo, giustamente, eccetera, Giuseppe, eccetera. Dimmi. Le persone non è che non hanno il diritto. Il diritto... Cioè, bisogna togliere Twitter a Gasparri? No, non bisogna togliere Twitter, bisogna lasciar perdere Gasparri. Cioè, non lo chiamiamo più, ha fatto un errore. Io adesso capito, amico mio, fa il vicepresidente del Senato. È vicepresidente del Senato e non sa parlare in italiano. Ha commesso un errore, non sa parlare italiano, è una parola grossa, amico mio. Probabilmente sei peggio tu. Non saremmo qui a parlare, non è la prima volta che sbaglia. Cioè, continua a sbagliare. Forse erano questi i problemi, amico mio. Ma io lo so che non sono questi i problemi. Ma non ho capito, però... tu gli hai risposto su Twitter? Ma io gli ho mandato tante di quelle cose che non posso ripetere. Cioè, che gli hai scritto? No, le devi ripetere, sei qua per ripeterle. Non è che sei qua per cantare la messa qua. Che cosa gli hai scritto al povero Gasparri su Twitter? Cosa gli hai scritto? Che sono stanco. Sono stanco di queste situazioni. Perché io per un errore grammaticale vengo preso per il culo e faccio delle figuracce e vengo considerato magari un ignorante. Lui, che si trova nella medesima situazione, invece si permette di dire che chi gli fa notare che forse è un po' maldestro lo considera un drogato. Cioè, è fuori dal normale. Ma tu che gli hai detto? L'hai insultato? Gli ho detto che è un po' uno stronzo. Cioè, così gli hai scritto, sei uno stronzo. Gli ho scritto un po' uno stronzo, perché alla fine poi ho anche paura, diciamo, non so... Ma è strano che non ti abbia la reazione. Strano che non ti abbia cancellato, diciamo, no? Strano che non mi abbia querelato, vorrei dire. Va bene Marco, ma alla fine che vuoi? Non ho capito. Cioè... Io vorrei solamente che Gasparri si dimettesse. Sarebbe un mondo molto più bello. Ciao, Mirko da Milano. Vai, Mirko. Ciao. Dimmi. Vorrei parlare con Parenzo. Eccolo, sta qua. Caro Mirko, eccoci qua. Allora, dimmi. Parenzo, io ti reputo una persona abbastanza intelligente. Abbastanza. Sì, parla a voce alta però, Mirko, non siamo in confessionale. Mirko da Milano. Senti, Parenzo. Sì. Però ogni tanto te ne esci con delle stronzate. Scusate, tipo la questione dei Rom. Ecco, Mirko da Milano, vediamo. Tu dici che i Rom vanno aiutati. Berlusconi anche l'ha detto. Non sono il solo. Ma che me ne frega a me di Berlusconi? Io sto parlando di te. Che cazzo c'è? Non sono il solo. Allora posso parlare? Non aiutati. L'hanno costruiti dei piccoli villaggetti come all'Aquila. Questo l'hanno costruiti? Dei piccoli villaggetti, vanno integrati, vanno così da politiche attive dell'integrazione, mediatori culturali, portati i figli a scuola, via dalla metropolitana. Parla tu, mediatori culturali. Vai, certo. Allora, figure nuove, di professioni nuove per affrontare la contemporaneità. Pagati da noi. Vai, tu Mirko. Dovevi fare il politico. Mirko da Milano, avanti. Allora, io ti dico, e cosa ne dici di tutte quelle persone che dormono nelle auto, degli italiani che dormono nelle auto? Cosa faresti per loro? Va risolto anche quel problema lì, ovviamente. Vabbè, Mirko, allora... Case, anche dunque... popolari, anche per quelli, certo. Dice un mucchio di strontate. Sì. Paghiamo tutti, che ci Mirko prega? Da Milano, va bene. Paghiamo si chiama qua. Welfare, infatti, Stato sociale. Sì, paghiamo allora, tutti. Che è l'unica roba che la politica deve fare, Stato sociale, pensare alle persone. Parla tu, sempre tu parli, dici sempre stronzate. Avanti Mirko da Milano, avanti che mi stai lessando le palle come delle uova alla cocca, Mirko, su, dai che è venerdì. Però Mirko, arriviamo a una conclusione, perché altrimenti... Ruspe, e poi vediamo, vanno a lavorare, ma voi avete visto il servizio delle Iene? Dove dentro le roulotte c'erano televisori a plasma. Metti meglio la cornetta del telefono, il telefono, se no non si sente, Mirko, vai. Voi l'avete visto i servizi delle Iene, dove dentro le roulotte c'erano televisori al plasma? Quasi. Come no? A me lo dici? E allora che cazzo stiamo parlando? La gente muore di fame, ancora difendere i Rom. I Rom devono essere messi alla pari degli italiani. Quindi io posso costruire un campo di gente italiana in mezzo alla strada? No, non lo posso fare, mi arrivano i carabinieri. Ma come dare torto a Mirko? Cioè, se tu vuoi costruire un campo, bene, non ma ha ragione, torto a ma Mirko, ragione al 100%. Ma se tu vuoi costruire in un campo una specie di cittadella, la cittadella dei cruciani, fino tutti ad quelli oggi, che si chiamano fino cruciani, ad oggi lo avete, non ne voglio parlare aspetta, mai più. Poi con tutti te quelli, non parlo più. Tutti no, quelli, io parlo con quello originale, aspetta, con Salvini, non aspetta, con la copia. Stai zitto. Parlo con quello originale. Tutti quelli che si chiamano cruciani vogliono fare un campo. Vogliono fare un campo e mettersi tutti insieme, però vogliono la luce gratis, l'acqua gratis, chi ha detto l'assistente gratis? Sociale, il mediatore culturale, perché sai, i cruciani possono andare in difficoltà, possono sentirsi un po' discriminati, sì. Sai, uno che si chiama Cruciani viene considerato uno stronzo, un pervertito, eccetera, eccetera. Dunque tutti quelli che si chiamano Cruciani si radunano in un campo e dice: noi siamo discriminati perché ci chiamiamo Cruciani. Mirko, aiutami tu, dobbiamo essere aiutati, dateci i lavori pubblici gratis, come dice Berlusconi, dateci gli assistenti sociali, dateci finanziamenti europei, eccetera, eccetera. Siamo una categoria discriminata, perché bravo, no? Come esattamente i Rom. E cosa dici, Parenzo? No, non dice niente. Che non dici? Dice sta niente. Zitto. Natalino sta da Padova. Sta zitto. Natalino. Ascolto e prendo appunti. Diciamo. Natalino, vai, Natalino. Sì, sono prego, cose di buon senso. Buonasera. Cose sì, di buon senso. Buonasera. Mi sentite? Sì, sì, dimmi. Ora parla Natalino, Mirko, sentiamo tutti. Ma perché le associazioni Rom non sono in rivolta per il fatto che una famiglia Rom di Avezzano ha occupato dei criminali, una casa popolare? Perché una sono casa dei popolare, criminali, oltre che Rom, popolare. Sono dei criminali. Natalino. Deve intervenire la forza pubblica e mandarli via. Ma, non, ma chi difende i criminali? Natalino, non certo vai. Io. Sì, prego, buonasera. Dimmi Natalino, dimmi. Senta, a riguardo dei Rom che hanno occupato quell'appartamento abusivamente, sì. Volevo semplicemente dire a quella testa di minchia imbevuto di spazzatura intellettuale di Parenzo, sì, che è ora questo di è Natalino, iniziare, no? Con il giacobinismo. Non balassi, no, non balassi. No, no, appunto, Natalino da Padova. Mi state sentendo? Sì. Ma assolutamente sì, Natalino caro, prego. Vai, vai. Ah, ok. Sì, per carità. Appunto, volevo ripetere. Anche il suo pensiero ha dignità. Vai. In democrazia, purtroppo, chiusa parentesi. Sì, ok. Prego, volevo semplicemente dire che è ora di iniziare col giacobinismo. Col giacobinismo. In che senso? Natalino aspetta, da Padova aspetta, parla aspetta, del giacobinismo. Aspetta, fammi sentire in che senso. Sì, perché se non si può decidere che dei Rom hanno occupato abusivamente una casa, di conseguenza i legittimi proprietari devono essere buttati fuori perché quegli altri hanno dei bambini, allora vuol dire che il giacobinismo è ora che avvenga. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire giacobinismo? Bisogna tagliare la testa ai Rom? Che va fatto? No, no, ai Rom, a quelli che decidono che non si può fare nulla. Cioè, allora cosa bisogna per fare? Invece, per quanto invece riguarda i Rom, penso che quella volta che sono stato ad Dachau non ho avuto senso di pietà quando ho letto che a 30 di loro hanno fatto bere acqua salata fino per vedere quanti giorni vivevano. Non ho provato pietà. E lo cioè, dice tu pure stai la radio. Dicendo Natalino, volevo dire semplicemente questo. No, semplicemente. Non semplicemente. È semplicemente. Stai dicendo, volevo stai dire dicendo semplicemente questo. Che ed è una persona normale questa, Dachau, secondo te? Sei andato a Dachau, pazzesco, e pazzesco. Hai, non hai provato pietà di fronte, come dire, pazzesco, alla ricostruzione, immagini, al racconto di esperimenti Rom, che di Rom venivano fatti sui Rom. Bravo, proprio così. No, bravo cazzo. Bravo niente Natalino. Cioè di Rom che sono stati praticamente quell'imbevuto di bevevano altri. Ora che si prenda e si suicidi perché lui è un deficiente. Ma cosa c'entra il suicidio di Parenzo? Che potrà decidere lui perché cosa fare? È un deficiente. Lui vabbè, d'accordo. Non può andare avanti in questo modo. Natalino, no, non può andare avanti. Anche l'abusivismo. Mi potete spiegare perché Natalino, l'opinione scusami di Natalino vale no, come quella di Umberto Eco? No, mi potete spiegare perché? È morto, appunto. Mi potete spiegare purtroppo perché in democrazia l'opinione di un idiota come Natalino. Un voto vale uno. Lo so, purtroppo. È una grande conquista. Voglio difendere anche questo. Difendo il diritto di Natalino e che la sua opinione vale quanto quella di un intellettuale come Jabez, come Edmond Jabez. Chi è Edmond Jabez? Beh, vabbè, un chi cazzo è Edmond Jabez? Come scusa, Natalino, Christian però adesso tu hai eliminato la parte di Natalino in cui parlava della visita a Dachau. Sì, volevo cioè, salvarlo. Dice, no, tu dici volevo salvarlo Dachau, dall'imbarazzo, da se stesso. Ho una certa gioia, giusto Natalino? Una certa gioia a vedere questo che ha abbassato perché chiaramente ha capito uno che si augura la morte dei Rom nei campi di concentramento appartiene al mondo dell'iperuranio, io dico, no? Vabbè, dai. Sono partito 20 ore fa da Pechino, sono in Malesia, fa un caldo boia, ovviamente non ho avuto modo di lavarmi e non riuscirò a farlo fino almeno domani, quando arriverò in Australia. Farò un puzzo cane, siamo al top. Riprendiamo, caro Parenzo. Stavo osservando nel frattempo una roba prima di riaprire quelle che tu chiami le fogne. Le gabbie, tu, io la chiamo l'Italia che parla. Bello, un titolo antico. L'Italia che parla. Titolo di un vecchio programma. Stavo leggendo nel frattempo. L'Italia che sparla, in questo caso. Beh, no, l'Italia che parla, così. Dai, sull'Italia che parla. E io preferisco quell'Italia che ascolta e che si fa un'opinione. L'Italia che ascolta. Sì, allora, stavo leggendo. Senti, sul Corriere della Sera, su Repubblica, online, un titolo. Milano, il mercato all'aperto della droga nel chiostro della statale. Sì, abbiamo visto. Gli arresti nel cuore dell'università. Uno si aspetta, cazzo, qui stanno spacciando eroina, stanno spacciando cocaina. No, spacciano hashish. Spacciano. Certo, uno è stato preso con 22 grammi di marijuana. Senti, grande operazione, per carità, con tutto rispetto alle forze dell'ordine. 400 grammi di hashish e 180 purtroppo sei illegale. Euro. Cioè 22 grammi di marijuana. Uno è stato trovato in possesso di 22 grammi di marijuana, 14 grammi di hashish e 180 euro. Il grande tesoro, 180 euro. Legalizzazione. Anzi, devo dirti la verità, tutta questa storia sulla facilità di procurarsi cocaina, che viene fuori dalla vicenda Foffo, dalla vicenda Prato, dalla vicenda del povero Varani, eccetera eccetera. Cioè uno scende, va al bancomat, si rifornisce di soldi, chiama chiunque attraverso il cellulare. Sì. Io ho 4-5 numeri, volendo, di spacciatori. Cioè ce li abbiamo tutti i numeri di spacciatori. Non perché mi faccio di cocaina, ma semplicemente perché me li passano. Tieni, prova a chiamare questo spacciatore, vuoi fare un'intervista, prova a chiamare questo, prova a chiamare quest'altro. Ho 4-5 numeri sotto mano di veri e propri spacciatori. Ora io dico una cosa, no? Cioè è talmente facile che sono portato a dire: bisogna legalizzare anche la cocaina. Guarda, cioè mi sto convincendo che è necessario legalizzare pure la cocaina. Questo può essere. Cioè piuttosto di andarla a comprare tagliata male, io non l'ho mai comprata, non la uso e non bisogna usarla. Ma siccome avviene e comunque avverrà sempre, purtroppo non si può eliminare, forse è meglio legalizzare pure la cocaina. Beh, la droga leggera non ne parliamo, ma forse pure la cocaina, guarda. Ripetiamo i numeri, purtroppo. 800 24 00 24, WhatsApp 393 71 71 701. Andrea Ravenna, vai. Ciao, buonasera. Dimmi. Buonasera Cruciani. Vai. Vado subito. No, io volevo una discussione pacata, perché prima pacata. Qui non ci sono discussioni. Non esistono discussioni. Proviamo a fare una riflessione. Ma con Parenzo, perché volevo capire alcune cose. Sui Rom. Allora, quello che non riesco a capire io da cittadino, no, è questo. Sì. Queste persone chiaramente sono sul nostro territorio. Sì. Con Parenzo sulla integrazione, sulla riconversione delle loro opere, delle loro opere, delle loro attività e tutto. Però mi chiedo perché dargli, è l'esperienza ormai che parla, no? Perché dargli l'acqua gratis? L'energia elettrica gratis. Nessuna acqua gratis, si chiama patto della legalità. Laddove è stato fatto? Sì, laddove è stato fatto? Se fotto in alcune città, elettrica e l'acqua. In alcune città dove è stato fatto funziona, certo, cioè ma quale patto? Non devi prendere, ma perché devo pagare l'acqua al campo Rom? Perché devo pagare l'elettricità? Vanno riportati nella legalità. Capito? Ma se tu gliela dai gratis, non quella roba lì. Ci sono i mediatori culturali che sono ragazzi laureati in psicologia. Io con queste parole non ne posso più. Che sono adatti a svolgere questo ruolo. Io con questa parola non ne posso più. E tu daresti lavoro anche a molti italiani che potrebbero occuparsi di integrazione seriamente. Però tu, se quando guardi in giro, io giro molto per la strada. E vedi i campi Rom, sì, sono uno sfacelo, certo, addirittura fanno chiusi, anche deprezzare. Certo, le case, ovvio, vanno chiusi subito, ha ragione Berlusconi. No, ma io non capisco perché proprio... Vedi, questa è una bella discussione civile. Benissimo, giusto. Giusto, sono d'accordo con lei. Per questa gente qui, cioè. Ma i campi Rom vanno chiusi perché deprezzano certo, chi ci abita. Va bene, intorno. Andrea, poi conclusione? Bravo, giusto. A conclusione io volevo solamente dire questo. Cioè, vabbè, ciao. Fabrizio da Roma, dai, Fabrizio. Si può discutere pacatamente. Dimmi, Fabrizio, dimmi. Oh, buonasera ragazzi, ciao. Allora, Giuseppe, io ho bisogno del tuo aiuto, se vuoi, se possibile. Io sono 4 giorni che non mangio. Sì. Perché non mangi da 4 giorni? Solo acqua. Perché? vessazione psicologica da parte dei vegetariani, vegani, crudisti, crudariani, eccetera, ma non rotto il cazzo. In che senso? Stai facendo uno sciopero? Uno sciopero della fame e della sete per... No, non è uno sciopero. Siccome io sono una persona molto sensibile, hanno cominciato a rompermi il cazzo i vegetariani e non mangia la carne, non mangia il pesce. Poi non beve il latte perché era riattivo un'altra stronzata. Poi le uova, poi i vegani. Poi addirittura sta altro cretino l'altro giorno, da tempo. Tagli la zucchina e piange e soffre. Io sono una persona sensibile, non riesco neanche a staccare una bacca da un albero perché soffre l'albero. Chi fa? Tu per questo. Quell'Alessandro da Roma che ha chiamato ieri, quell'altro coglione. Ah, ho capito, tu lo stai facendo. Praticamente lo stai facendo apposta. Non è che lo sto a fare apposta. Cioè, oggi sono per dimostrare la tua sensibilità nei confronti delle verdure che soffrono mentre le tagli. Degli animali che soffrono perché c'è. Perché li mangiamo, tu hai deciso praticamente di digiunare totalmente. Ma non è stai attento deciso. Anche all'acqua, però. Stai attento ma anche all'acqua. Potrebbe soffrire anche l'acqua. È vero, ma non è che ho deciso, è che pure oggi sono entrato al supermercato e non sapevo che cazzo comprare, perché questo no, quello, se mangi quello sei un assassino, se mangi quello t'avveleni, se mangi quello sei un assassino, hanno rotto il cazzo. Allora che me domagna? Sì. Ditemo voi che me domagna. Che ne so, che me domagna? Nulla. No, ditemo, cioè che ne so, che ne chiedilo ai vegani. Come lo risolvi? Cioè vado in giro, gelateria vegana, paninoteca vegana. Tutti lì de fuori che parlano, ah, perché chi mangia la carne mentre io passo, magari mi sto mangiando hot dog. Cioè io oggi sono al supermercato, ho comprato l'acqua tonica. L'acqua tonica, l'altro giorno Parenzo, mi hanno mandato una foto di una roba che si chiama Fiorentina vegana. Fiorentina vegana. Oh mamma. Fiorentina che roba vegana, è? Amico mio. Fiorentina vegana. Dico solo questo, Fiorentina vegana. Poi c'è un'altra cosa, le scarpe vegane. Non ne posso più. Mi mandano continuamente foto di fiere in giro per l'Italia con scarpe vegane. Le scarpe vegane. Cioè, praticamente delle scarpe in cui non c'è il contributo della pelle animale. Sì, ma che te le frega? Se c'è qualche pirla che le compra, va benissimo. Sei Questi contento. Sono dei geni, i croissant vegani, la Fiorentina benissimo. Vegana. Che ne so. Fiorentina vegana non so che cosa sia. Tu lo sai che c'è la pasta con i grilli? Cioè, c'è una grilli. Pasta che mi hanno mandato... Con i grillini? Sì. No, con i grilli. Una pasta con i grilli. Non lo so cosa. Ma i grilli si possono mangiare? Fabrizio, hai deciso di ricominciare a mangiare oppure no? Ma mo ce provo, vado su, che ne so, io veramente, poi tra l'altro c'ho pure il gatto, no? Che gli voglio bene, ma è sempre una bestia. Sempre. Che faccio, ma mangio lui? No, il gatto no, il gatto. Ho comprato oggi l'acqua tonica e la sabbia per gatto, lettiera per farlo pisciare, caga. Tu ecco, dici, alla fine questo, però poi non mi deperire troppo, caro Fabrizio. Cioè, il fatto poi non riesco manco a farmene più tre al giorno, io so quello che se ne fa tre al giorno volendo, con una bella figa accanto, sì, che tu sì. mi dicevi l'altra volta, tre no, ma io massimo una tre al giorno. Giorno tre certo, al giorno. Tutte una, mica di fila una all'altra, una mattina, una dopo pranzo, una sera. Ma amico mio, se ti piace così, dopo... se vuoi morire va bene, se vuoi morire di infarto va bene. Oh, cioè, sicuramente fa bene alla prostata. Giuseppe da Reggio Calabria, vai. Giuseppe, vai. Pronto? Sì, dimmi Giuseppe, dimmi. Giuseppe, domani abbiamo il nostro che ci avete il vostro? San Giuseppe, tanti auguri. Tanti auguri pure a te. Vabbè, ma chi se ne frega di San Giuseppe? Dai. Ho capito, ascolta. Se mi dai io manco, mi ero pure dimenticato di San Giuseppe. Ho capito, ascolta, io ti ho fatto apparenza pure, io vorrei dire di andare a fare un'operazione come hanno fatto Praga e Bratislava. Cioè? Dividere, tornare ai paralleli dei Borboni, perché ora. Cioè, tu rivuoi i Borboni di nuovo? Sei un neo-borbonico? Ascolta, io sono un italiano del sud. Quindi io vorrei la bandiera italiana, l'inno italiano, perché gli sputano, gli schifano, gli fanno di tutto all'inno e alla bandiera. Vabbè, allora... E niente, dividerci diplomaticamente, senza spargimento di sangue, possibilmente stare... Però ti voglio segnalare, io che sono, come dire, un fautore anche di una differenza profonda, che ormai questo tema qui della separazione nord-sud è un po' passato, manco Salvini lo dice più, non lo utilizza più. No, Salvini è un pochino sottile, dice le cose. Ora sul Reggio ci abbiamo pure che ci portano Reggio. Noi con Salvini, cioè noi siamo il Mediterraneo, noi siamo il nord del... Vabbè, Giuseppe, vai a sognare da un'altra parte, va, buonanotte, ciao. È con noi una persona che in qualche modo a Roma il voto lo orienta, caro Parenzo. Il suo parere lo sposta, dici. Beh, in un certo mondo può essere decisivo per capire chi vince in questo enorme bordello che è Roma. Perché Roma è un enorme bordello, ci sono una marea di candidati, la destra è frantumata, il Partito Democratico, insomma, mafia capitale, eccetera, eccetera. stanno pure loro messi molto molto male. E io dico solo una cosa: la signora Raggi dei 5 Stelle deve fare solo ed esclusivamente, da un piccolo consiglio mediatico, un piccolo consiglio anche se vuoi da un esperto come me, un guru della comunicazione, esatto, il McLuhan. Potrei tranquillamente, sono sicuramente meglio di molti altri che ci sono in giro, Parenzo, su questo non c'è dubbio. Ecco, la signora Raggi dica pochissime cose, quasi nulla, vada in qualche trasmissione, nemmeno troppe, da Vespa, si presenti bene, faccia vedere ogni tanto un po' di coscette, un po' di coso, carina, sempre truccata bene, non deve dire niente. Tanto a Roma tutti dicono la stessa cosa: bisogna cancellare il passato, sì, certo, e ricominciare da questo capo. Questo è lo storytelling. Dicono tutti la stessa cosa, lei invece non deve dire niente, nulla di nuovo, deve essere lì. E i voti le arriveranno in maniera naturale, arriverà al ballottaggio senza nemmeno accorgersene, forse con Giachetti, forse, secondo me no, con la Meloni, e poi a quel punto la vittoria, tutti quelli che non vogliono votare per Renzi voteranno per la signora Raggi. E Roma non c'è niente da fare, a meno che non succeda un casino pazzesco, eccetera, eccetera. Roma sarà governata da Casaleggio, perché questa è la realtà. La realtà è che la signora Raggi, per quanto bravissima, eccetera, eccetera, simpatica, eccetera, sarà governata da un signore che si chiama Casaleggio. Non ci sarà più il Colosseo. Ma no, non serve. Lo vedrai sulla rete, in internet. No. Lo butteremo giù. I fori romani, che cazzo servono i fori romani? No, vabbè, la gente che va in fila con le macchine, appunto è Casaleggio, lo blocca. Che... fa il gas, no, li vedrai in internet, lì, in 3D, scusa, no. Le puoi anche stampare, così, lo stampi, esce dalla fotocopiatrice al Colosseo, lo buttiamo giù, lì, ma no, buttare giù, ma non serve meno a nulla, meno male che c'è Casaleggio, meno male Grillo che c'è Casaleggio, non serve a niente, a niente, comunque Casaleggio guiderà da Milano guiderà a Roma, con un è già una telecamera, certo, normale. Vladimir Luxuria con noi, buonasera, poi diciamo che la Raggi ha superato la prova del look, cioè? La Bedori è stata bocciata perché ha un look troppo compagna, troppo femminista, troppo sessantottina, invece la Raggi, dai, è un po' come il capolavoro di Ann Wermer, la donna non mi dire che ti piace la signora Raggi, non sessualmente, perché hai altri gusti, diciamo, no? Non direi mai, guarda. Cioè, pure con le donne andresti, mo, adesso. Hai fatto un casino per diventare quello che sei, ma vai pure con le donne. Però il giudizio lo posso esprimere. Una bella donna. Una bella donna, piace un sacco di gente, piace pure a Berlusconi che ti fa per lei. Piace pure a Berlusconi, capito? Piace a tutti, pazzesco. Per questo deve stare zitta. Il mio, dimmi se non ho sbagliato a fare questa previsione, cioè non fa niente e vince, capito? Questa è la realtà. Scusami, Vladimir, non ho capito, il voto delle persone che tu conosci, di un mondo grande, il gay village, il mondo transessuale romano, il mondo gaio romano, il mondo un po' frociarolo romano, come lo chiamo io, eccetera, per chi vota secondo te? Ma intanto dobbiamo aspettare i programmi, perché qui finora si è parlato della Raggi, della Meloni, Incinta, Bertolami, però nessuno sa cioè, che cosa faranno, che faranno per Roma, dice, non lo dobbiamo sapere. Vabbè, ma i programmi contano niente ancora. Ma figurati se la gente a Roma vota per i programmi, la gente vota dopo quello che è successo, vota così a istinto, voterà a istinto per quelli di cui si fida, punto e basta. Dai. Vabbè, comunque per chi vota sto mondo? Comunque gli omosessuali non sono omologati, quindi non è che tutti votano. Vabbè, più o meno. Tu, per esempio, per chi voti? Dimmi la verità. Ancora un po'... Non hai deciso ancora. Ma guarda, vedo che c'è la sinistra italiana un po'... non lo so, mi sembra un po'... Giachetti, Giachetti. Alla endorsement fine, sì, mi Giachetti. Sembra il male minore, mi sembra Giachetti, l'ho conosciuto. Il male per minore. Perlomeno non ha neanche precedenti penali, sai che ormai è una virtù politica. Anzi. Quello no. Dice che non vuole mettere gli indagati nelle liste, dice che farà le liste pulite, però certo c'è il peso del PD che a Roma è mafia capitale, è identificato come mafia capitale, non c'è ombra di dubbio dal punto di vista mediatico. Comunque alla fine voti Giachetti. Ma se vuoi anche un passato da radicale, quindi dovrebbe essere aperto su molti temi. Sì, quello sicuro. Locali, moltissimo. Quindi... Quello sicuro. Senti, la Meloni... questa cosa qua, prima sì, prima no, poi sì, poi candida dalla Chiesa, poi candida Bertolaso, poi dice di no Bertolaso, e incinta non si può, e poi incinta si può. Adesso ci manca solo che fa la campagna elettorale dall'ospedale, quando sarà il momento, è tutto finito. Allora, voglio dire, come la giudichi? Allora, spero di non essere massacrato, perché io ogni volta che dico qualcosa sulla Meloni, tutto il suo popolo... devi sempre dire quello che pensi. L'ultima volta ho fatto una battuta, ti giuro. Auguri a figli trans, là. Sì, ma sì, è una cosa che io dico sempre, perché una volta ero a tavola, a cena, c'era una che ha detto sono incinta, l'amica mia, e un uomo ha detto auguri a figli maschi, e le ha detto no, guarda, che auguri a figli femmine. E hanno cominciato a litigare tra di loro. A un certo punto ho detto, sai che c'è? Auguri a figli trans. Si sono messi tutti a ridere, e la battuta così... L'ho fatta sulla Meloni, ne ha fatto una tragedia, è andata a tutte le trasmissioni a dire, non lo so. Ah, se anche se avessi un figlio trans lo amerei comunque, come se fosse la maggiore disgrazia, capito? Come se fosse la malattia, insomma. Ah, cioè, capito? Come se fosse, capito, che gli auguro il peggio della vita, capito? Allora, diciamo auguri a figli gay. Diciamo auguri a figli gay. Ma auguri e figli e basta. Ma io dico una cosa, ho capito lì che lei dall'inizio ha pensato di usare politicamente la sua maternità. Cioè sta usando la sua maternità. Ma sì, dove l'ha detto? Un uso politico della maternità, dice. Ma sì, lo ha detto la casa. Al Family Day, sì. L'ha detto al Family Day. E vabbè. Poi dopo io ho fatto quella battuta e ha fatto la tragedia greca. Sì. Poi non mi candido perché se no non posso... Non, sai, sono incinta, non me la sento. Non ce la faccio, cioè. Non me la sento. Nel frattempo a Roma c'era pieno di poster della Meloni in giro. E poi alla fine dice, vabbè, adesso dicendo, vedete, mi sacrifico pur... Per amore. Mi sarebbe piaciuto che magari quando era ministro della gioventù nel governo Berlusconi, sì, quel governo, come uno dei primi atti, fu quello di ripristinare le dimissioni in bianco, no, che sono queste lettere che firmano delle persone prima di Secondo lei si deve dimettere da parlamentare, non ho capito. No, io dico, le dimissioni in bianco era una pratica incivile, per cui molte donne firmavano prima una lettera senza una fine di contrattivo, senza scadenza. Non era d'accordo su questo la Meloni. Che il datore di lavoro poteva licenziarti se tu rimanevi incinta, no? Visto che si parla tanto di conciliare la maternità con il lavoro. Ma non penso... Perché quando è venuto il governo Berlusconi ha ripristinato questa... Lei non ha detto niente, dici? Pratica, non ha detto nulla. Cioè, ma adesso non me la ricordo. Una deve aspettare... sì, ma se succede, se vince là, che succede ai gay a Roma? Un pericolo per i gay a Roma, secondo te, la Meloni? Ma guarda, lo si diceva pure di Alemanno, e poi Alemanno fece pure il video di benvenuto quando venne Lady Gaga. Per cui alla fine quando uno diventa sindaco. Sai, voglio dire, che cosa può fare? Cioè, impedisce che gay pride, impedisce gay pride. La trasmissione dei matrimoni all'estero, vabbè, ok, come ha fatto quella che fece Marino, ma ormai... diciamo con l'approvazione delle unioni civili. Sì. Io amo Parenzo che si incazza col divino Telma. Cioè, è un grande. Cioè, Parenzo, ti voglio bene, cazzo. Hai visto che arrivano anche cose positive, David? Hai visto che arrivano anche cose positive? Sarebbe bello che tanto magari dicessi, guarda, io amo Parenzo perché legge Milan Kundera, oppure perché legge... Non arriveranno questi, no, non arriveranno, lo so, ti assicuro che... battaglia col divino Otelba, sì. Allora, accontentiamoci. Scavallate le 8 di sera, Chiudiamo qui, dai, che è venuta bene fino adesso. No. Se andiamo avanti, sbrodoliamo, viene male la trasmissione. Chiudiamola qui, che era bella così oggi. Tu non hai idea oggi. Che cosa ti ho preparato dalle 20 oggi, dalle 20 alle 20:50. Bella così, fidati. Ma tu non hai idea di che cosa succederà adesso, tra le 20 e le 25. Tu non hai nemmeno la minima idea. Tremo. Cioè, succederà così. di tutto. Aspetta che mi sta chiamando Squinzi. Scusa un secondo. A cominciare da una piccola replica delle Presidente. Cose. Sì, che c'è, dai. Ciao, no. Presidente. Dai, no, non c'è il porno come al solito, non si preoccupi. Sì, sì, ci penso io, grazie. A cominciare dalle cose esplosive che ha detto due giorni fa qui, ho aspettato un giorno prima di rimandarle perché tanto ne parlavano tutti, eccetera, che ha detto qui alla Zanzara il signor Pupo, il mio amico Pupo. Come sai c'è un grande disco che esce che si chiama Porno contro amore, che è la resurrezione di Pupo, che è guarito dalla sua ossessione sessuale. È una delle poche persone bigame non dal punto di vista, come dire, legislativo in Italia, cioè vive con due donne, c'è una delle poche persone che ufficialmente vive con due donne, poi c'è un sacco di altra gente che in realtà ne fa di tutti i colori, vive con due, tre, quattro, cinque storie in contemporanea, e insomma ci ha raccontato delle cose pruriginose che però sono vere, capito? La realtà, Parenzo, è che sono vere, vere, sono le storie della sua vita, la storia di un uomo che è uscito da quello che lui chiamava tunnel, magari un tunnel dorato che era quello della ossessione sessuale, e ci ha raccontato delle cose anche forti dal punto di vista degli atti, secondo lui sconsiderati, che faceva in un'altra vita, che poi sarà vero che adesso è una vita, bah, sai, poi non si può entrare troppo nei meandri della mente umana. c'è stata anche qualche volta l'omosessualità. Sì, esatto. Cioè sei stato anche con un uomo? Sì. Cioè, ma passivamente o attivamente? Attivamente. Attivamente, cioè l'hai messo dietro a un uomo, insomma. Poi ha fatto tutta una sua ha parlato del fatto che in realtà la passività è una cosa fondamentale, è una cosa fondamentale, perché lo ha spiegato scientificamente, perché qualche volta gli atti sessuali, Parenzo, vanno spiegati scientificamente, cioè non va affrontato come cosa solo pruriginosa. Anche la voce, quando si affronta certi argomenti, deve essere fredda, analitica. Ma passivamente o attivamente non conta niente. Beh, no, no, no, no, non vuol dire niente. Queste sono tutte forme che... Ma io sicuro che conta un po', eh? No, assolutamente, anche perché guarda, la passività è meravigliosa, se ci pensi bene, perché la stimolazione della prostata ti dà solo godimento. Quindi il top per un uomo sarebbe, proprio questo è scientifico, è scienza, non è che lo dico io, è fare l'amore e introdurre il membro eretto nella vagina e farsi e nello stesso tempo e nel tempo avere qualcosa che ti stimola la prostata da di dietro, cioè il massimo del godimento. Parenzo, hai capito o no? Questa è scienza. No, è bello che poi dico questa è scienza. Sì, professor Pupo. Professore totale. Poi c'era la masturbazione con gli oggetti, che poi non riesco a capire quali sono. L'erotomane, sì, il classico erotomane. Ma in questo campo, come dire, abbiamo qui una professoressa in realtà, cioè, sfondo una porta aperta con la professoressa Luxuria, se non sbaglio, giusto Vladimir? Cosa sfondi? Una porta aperta. Adesso. Una porta aperta. Adesso non mi portare su questi doppi sensi. Non era un doppio senso in questo caso, ti posso assicurare. Ma tu credi a questa cosa di Pupo, che in realtà è stato solo attivo e non passivo nelle sue esperienze sessuali? Oppure uno lo dice tanto per un po' per paracurare, insomma, per dire, vabbè, in realtà ho fatto tutto, ma dico solo un po'. Ah, intanto premio il coraggio di Pupo, l'ha detto, non è che è uno che... Certo. Poi io sono Machiavelli, che il fine giustifica i mezzi, quindi qualsiasi mezzo si ha ovviamente tra adulti e consenzienti per raggiungere il piacere soddisfacente, certo. Ma ben venga, e chi sei tu per puntare il dito? Al limite il dito te lo fitti lì dietro. Capito? Anche. Stimoli la prostata. Però è vero quello che dice. Tanti di quelli che stanno sempre a dire voi così, e voi colà, e questo è giusto, e questo è sbagliato, sono persone che forse avrebbero bisogno di un bel dito al culo, ecco. Tu dici, tu dici, no, sì, stimolando la prostata a volte si stimola. Cioè tu dici i vari dici, che ne so, facciamo qualche nome, sì. Cioè avrebbero bisogno, no, di che? Vabbè. Ma no, ma che ne so, le persone che... spesso quelli che giudicano di più, i nostri peggiori nemici, gli omofobi più agguerriti. Cioè sono i vari Giovanardi, Gasparri, dici. No, quelli sono al di là del limite del, tu dici non si può nemmeno No, ti prego. Cioè, vabbè, ma perché immagini adesso, cruente. Ma no, ma dai, adesso Gasparri e Giovanardi avranno la loro vita sessuale, adesso non è che sono proprio, tu dici che non riesci nemmeno ad immaginarla, dici. No, non ce la fai proprio, No, loro sono è troppo, vabbè, ho capito, torno eterosessuale in un istante, se solo mi viene da immaginare un rapporto. Con Gasparri torni etero. Cioè, io dico, quelli delle teorie riparative possono utilizzare questa minaccia, se vogliono curare i gay possono minacciarli di fare sesso con Gasparri, con Giovanni, con Adinolfi, sai? Oddio, capito? Certo, la teoria riparativa potrebbe avere un senso in questo caso. Dice. Come arancia meccanica. Altro che, quasi, no, diciamo a livello dell'elettroshock siamo, cioè, addirittura peggio dell'elettroshock. Però voglio farti notare una cosa che riguarda oggi il padre di Foffo, una vicenda drammatica, quella dell'uccisione di Varani. In un'intervista al Messaggero, il signor Foffo ha pronunciato una frase... evidentemente al signor Foffo e alla famiglia Foffo i gay non piacciono molto. Comunque il solo fatto di immaginare che il figlio abbia fatto esperienze omosessuali li getta, diciamo, nel dramma. Ma io non capisco quello, c'ha già tanti problemi. Ma... allora ha detto: aspetta, a noi Foffo non piacciono gli omosessuali. A noi Foffo, ma le donne vere. E mio figlio non è da meno. Come dire, mio figlio non è possibile che abbia fatto quello che c'è scritto. Cioè, magari qualche pompino al signor Prato, oppure abbia avuto delle esperienze omosessuali con le persone. Che erano in quelle persone. Ma secondo voi, cioè a me questa cosa mi fa venire proprio la pelle a grattugia. Ma secondo voi le persone adesso si stanno a chiedere che ha fatto Manuel con Marco quando c'è un cadavere ancora caldo? Esatto. Cioè la gente si sta a chiedere che cazzo gli passava per la testa a sti pazzi criminali. Per arrivare a infliggere quelle pene dolorose al corpo, e questo il papà si preoccupa di più di dire no, mio figlio non è gay. Pazzesco. Cioè, ragazzi, io però purtroppo questa è la realtà. Capisci come? Altro che meglio fascista che frocio. Qui meglio criminale, assassino che frocio. Pazzesco. Cioè, siamo arrivati a queste assurdità. Sì, sì, il sottotesto è esattamente questo. E adesso capisco perché Manuel probabilmente odiasse così tanto il padre. Chissà che cavolo gli ha inculcato in quella testa. Forse il papà di Manuel dovrebbe tacere per un po'. Ecco, tu dici che doveva tacere la Raggi. Credo che dovrebbe tacere un po' e forse non rilasciare interviste, perché già di cose brutte ne sono successe ed è meglio che forse si stia un po' zitto. Cioè, tu dici, il fatto di sottolineare che mio figlio non è gay, Prato, vabbè, al di là del fatto Prato lo ricattava con un video, quello è strategia processuale, chi se ne frega. Strategia difensiva, se adesso diranno, vorranno far pensare che Manu era manipolato, no? Era succube. Cioè, tu dici, quello che ha fatto Manuel è anche un po' colpa del padre, di quello dell'educazione del padre, questo stai dicendo? Guarda, io non sono una freudiana, è sempre colpa dei genitori, però sicuramente un padre che dice delle cose del genere davanti, ripeto, a un cadavere ancora caldo, si terranno ai funerali domani, mi sembra davvero uno che forse tanto bene con la testa non ci sta neanche lui. Senti una cosa, tu l'altra volta Porta a Porta hai elencato una serie di droghe, come se le conoscessi benissimo, che vengono consumate in questi festini, non solo, sì, naturalmente frequentate. Ma io sono stata uno di questi chemsex a Londra. Ah, sei stata a Londra uno di questi chemsex? Ma sì, perché... E che succede? I gestori dei locali mi dicevano, ah, guarda, abbiamo questo problema di questi chemsex, la gente vive di meno perché fanno i festini, dico, ma io voglio andare a vedere che cos'è. Sono entrata tramite una cosa. Una noia... Praticamente erano tutti strafatti, con la schiumarella sulla non scopava porta. Nessuno. Uno si era addormentato sul cazzo moscio di un altro, che io ho detto, raga, ma se questo è erotico, io le tapparelle chiuse, la puzza di fumo, e ho detto, no ragazzi, mamma mia, ma meglio una trombata tradizionale a casa con uno. Ma che... guarda Vladimir, è esattamente quello che ho detto all'inizio, perché ho parlato con un sacco di miei amici omosessuali a Roma e mi hanno detto, guarda che questi party a base di sesso, che dicono sesso, cocaina, in realtà il sesso non esiste, perché è evidente che se te bevi 4-5 litri di birra o di altro, di superalcolici, ti strafai di qualsiasi sostanza e poi ma che fai? Cioè, buonanotte al sesso. Cioè, non ti si alza manco col coso, provano a prendere il Viagra alla fine, ma sono distrutti. Peggio, ma che cos'è per esempio la droga, il Calvin Klein? Che cos'è? Calvin Klein è un... ogni tanto danno pure questi non è una mutanda, no? Sì. No, non è una mutanda, è un misto tra cocaina e chetamina, quindi una cosa esplosiva che ti distrugge. E invece la parvenza di chic si dice un Calvin Klein. E il Super Speed? Super Speed è un'anfetamina fortissima. Ma tu quante droghe hai provato in vita tua? Tante? No, io ho provato, vabbè, lo spinello, ho provato un tiro di coca, ma io sono una che per me... Un solo tiro di coca, non ci credo, un solo tiro. Con un bel cazzo rimane sempre una sostanza eccitante. Meglio quello, dici, della sì, cocaina. Sì, meglio quello della cocaina. Possibile un solo tiro di cocaina? Non ci credo, dai, su. Sì. Una sola volta. Ma non sei appassionata di cocaina? Non sono appassionato di droga. Un bel bicchiere di vino rosso a cena... E le orge l'hai fatte qualche volta? La cosa più zozza che hai fatto qual è? Ma no, una volta me sono troppo uno solo su cui parlarmi. Cioè, preferisci una persona da sola? Aspetta, non si sente, forse è meglio per il professore. Forse è meglio, sì. Per il professore, cioè, forse preferisci lo one to one. Non è un dici? Caso che non si senta. Lo one to one, Non si sente più. Vabbè, va bene, Vladimir. Grazie. Ciao, Vladimir. Ciao. Ciao. Cruciani, ho la soluzione. Facciamo ascoltare agli agnelli in fila per il patibolo La Zanzara. Un orgasmo prima della fine. Andiamo, ascoltatori, caro Parenzo, Giulio, provincia di Messina, Donato da Como, Stefano Livorno, Giuliano Bari, Sandro Roma, tanti altri. Giulio, vai. E compagnia bella. Ciao Cruciani, buonasera. Vai, dimmi. Allora, io appena ti espongo ora il mio pensiero, appena dico che sono siciliano, tu dirai, vabbè, certo, sei siciliano e quindi voi pensate sempre le stesse cose. Ma io non ho detto niente, stai facendo tutto da solo. Vado avanti, metto le mani avanti. E metti le mani praticamente avanti. Io credo che nel 2016 il fatto che ormai debba lavorare sia il genitore, il papà, che la mamma, porti i bambini, i ragazzini a crescere un po' male. Ecco perché io credo che le donne, ma non perché sono un maschilista. Ma dove ti è venuta sta cazzata? Quanto ci hai pensato per dire bravissimo. Sta minchiata? Ma non perché sei siciliano, potresti essere pure di Padova, di Venezia. Come hai pensato a questa puttanata? Cioè, quanto tempo ci hai messo a pensare, ad elaborarla? Te lo dico subito. Allora, grandissima testa di cazzo. Se tu vai a lavorare e anche tu e tua moglie va a lavorare, i bambini chi cazzo lo accudisce? Chi gli insegna l'educazione? Amico mio, siamo un po' cambiati negli ultimi anni, la società si è modificata e io sono sempre convinto che si sta meglio adesso piuttosto che 20 anni fa, che 30 anni fa, che 40 anni fa. Sì, ma si sta benissimo, sì, benissimo si sta. Allora, ma non ho capito. Una cosa, non basterebbe aumentare allora ci sono moltissime donne non è che lavorano perché hanno voglia di fare carriera o perché hanno voglia di prenderla nel ma lo lasci decidere a loro o no? Oppure sei tu che decidi? Giulio dalla provincia di Messina, se le donne devono rimanere a casa o no, fai restare tua moglie se lei vuole restare, legala, mettile le manette. Vedi, lo sapevo, visto che c'entra Messina, a me che me ne frega di Messina, ma non è un fatto di Messina, di Milano. Prezzo, rispondi tu, dai, non essere silente, rispondi. Ma che cosa vuoi? Vuoi dire a uno così? Ma perché a uno così? Ascoltate, non dimmi, sto dicendo che la donna non è capace di lavorare, ma perché non ho capito un cazzo? Mica ma chi ha detto questo? Chi la sostiene? Io infatti sto semplicemente dicendo che i ragazzini hanno bisogno di una guida, hanno bisogno della mamma accanto, della mamma e del papà, non hai detto sia soltanto la mamma, no? Certo, della mamma. Ma e che del c'entra padre. Col fatto che le donne e le mamme devono rimanere a casa invece di lavorare? Perché una volta. Bravissimo. Che succedeva? I ragazzini, chi li guidava? Chi oggi li vanno guidava? All'asilo, i nonni, l'asilo. Al nido vanno? Bravissimo, al nido. Ma dai. Avete figli? Ma sì, abbiamo figli tutti e due, abbiamo figli. Sì. Mi fa piacere. E le vostre... E li lasciate 8 ore, 12 ore al giorno? Fosse per me, dipende un po' con la mamma, i nonni, il nido, la tata. Ma se la mamma è costretta, fra virgolette, io sto parlando di gente che non vorrebbe lavorare. Non ce la faccio. Aumentare gli stipendi. Aumentiamo gli stipendi, anche basta, non ce la faccio. Giulio, non ce la faccio più a sentire queste cose. Ma magari le donne vogliono lavorare. Aumentiamo gli stipendi, cioè non è qua Casa Pound, capito? Cioè sembra un comizio di Casa Pound. È uguale, pensano le stesse cose, messo per dire, no? Giulio non gliene frega niente della politica. Basta, non ne posso più. Bisogna lavorare, uomini, donne, tutti, lavorare il più a lungo possibile. Non rompeteci i coglioni. Non so, Parenzo, se hai notato, quello del traffico è rimasto silenzioso, eh? Cioè, non ha detto un cazzo, abbiamo dovuto buttare giù la linea. Sì, abbiamo ricominciato da capo. Non mi pare che il mondo non cambierà. Insomma, il mondo non cambierà. E nemmeno la sorte di quelli che stanno viaggiando. No, però vecchio, io il venerdì in particolare, io che ho viaggiato in questi aprite giorni. I telefonini e informatevi sul traffico con i telefonini. Dai, su. Basta. No, se sei in macchina è comodissimo. Però aspetta un momento. Io direi di fare una telefonata a una signora che si chiama Anna Ciriani, detta anche Madame Web, detta anche la porno prof. La quale fu sospesa, se non ricordo male, per 6 mesi perché era andata nuda, non mi ricordo dove. A Berlino, a una specie di festival dell'erotismo, eccetera, e che è incazzata come una bestia, almeno così riferiscono le cronache, perché una maestra, sai quel caso della maestra che ha sputato i bambini in una scuola, no? Ha preso solamente 5 mesi di sospensione. Dunque pare incazzata come una biscia la signora Ciriani, detta anche la porno prof. Proviamo, dai. Signora Ciriani, sì? Buonasera, sono Cruciani dalla Zanzara, come stai? Buonasera, benissimo, grazie. La paladina della libertà. La paladina della libertà, ognuno fa quello che vuole nella vita privata. Nella propria vita privata. Non c'è dubbio. Ecco. Ricordiamo che Anna Ciriani è stata soprannominata la porno prof, Parenzo, la porno prof. Sì, come no. A Pordenone, sì, solamente perché ha partecipato, diciamo, ad una andata col marito alla Fiera del Sesso a Berlino e poi perché sul web ci circolano alcune diciamo foto sue un po' se diciamo, no? Sì, io ho partecipato nel 2007 a questa fiera nella mia vita privata durante le mie ferie. E qui nella fiera, ed era permesso farlo perché la fiera è vietata ai minori di 18, si poteva anche, io seminuda, ho iniziato a girare per gli stand in maniera goliardica, innocente. Vabbè. Cioè, io sono una donna allegra, piena di vita. Sì, per carità, mi piace tutto divertirmi, si vive una volta sola, non ci ho trovato nulla. Ecco, di ma male. Perché sei andata? Scusami. Ho avuto quell'occasione quella volta, ero a Berlino, c'era questa fiera. Andiamo mezze nude. Non ho trovato niente di andiamo male. Mezze nude alla fiera di Berlino, sì. Certo, perché se io mi diverto, ma mi certo, per carità. Beh, sì, però magari il suo ruolo. Ci sono altre persone che si divertono ad andare nelle spiagge naturiste, ci sono altre persone che si divertono a fare altre cose, ognuno nella propria vita privata. Si diverte come vuole. Come vuole, senza far male a nessuno, senza andare contro la legge. E ti hanno sospeso per quanto? Mi hanno sospeso per 6 mesi. Sì, ricordiamo che tu sei professoressa. Ma io vorrei dire che io sono una professoressa, ma a scuola. Di lettere? Mi comporto, certo, ma io a scuola mi comporto benissimo. Io sì, ci tengo capisce, il mio lavoro, vado signora, sempre morigerata, preparata nel mio lavoro, ci tengo al mio lavoro e sono sempre perfetta nel professoressa mio lavoro. E non ho mai toccato un mio alunno con un dito. Vengo a leggere che è una maestra d'asilo, picchia bambini di 3, 4, ma 5 non c'è anni, dubbio. Spitta in faccia, che è peggio, che è peggio. E viene sospesa solamente per 5 mesi. Sì, sì. Ma lei guarda, sei... siamo fuori. Ma guarda, che giustizia scolastica è questa? Beh, scusa, Parenzo, da questo punto di vista la signora... Ma non sono paragonati, sono due episodi diversi, quello dello sputo e della violenza è molto molto grave, ovviamente, andrebbe licenziata. Sono da paragonare perché il paragone però, è il periodo di sospensione. Sì, sono d'accordo con lei, quella professoressa lì che ha, o maestra che ha sputato e va licenziata, a mio avviso. Però non si può stupire se andando alla fiera del sesso e poi pubblicando queste foto sui social network, poi magari qualcuno dei suoi alunni la va a cercare, trova questa immagine, non dico che sia sconveniente, però comunque trova una certa discrasia. Che moralismo, moralismo. No, guardi, discrasia subito. Tra l'adorabile io professoressa penso, che insegna guardi, Manzoni e che scorrazza mezza nuda per la fiera di Berlino. Dopodiché fate come volete, amici ma miei. Allora tutti io quanti. Se frequento una spiaggia naturista, incontro un mio alunno in spiaggia naturista, che cosa succede? No, ma ha ragione. Ma detto che non è mica di età. Ma infatti io non sono per condannare nessuno, non la voglio condannare, dico non si deve stupire. Ricordatevi bene, gli alunni, prima di venire, è ora di finirla di dire che gli insegnanti devono fare da esempio, prima di tutto ci sono i genitori. Voi non vi rendete neanche conto che cosa ci vengono a raccontare, di che cosa succede nelle loro famiglie. Che dicono? Bambi che raccontano che hanno quattro madri e quattro padri perché il nonno si è separato, sta con l'altra donna, quest'altro, tutto un andare e vieni. Ma dove stiamo vivendo? Non si può stupire. Scusi un attimo, amica professoressa mia. Non è una cosa. Ma chi dice nulla? Non è mica una cosa da deprecare. Ho detto semplicemente che per me lei può girare per la fiera di Berlino anche con dei falli finti. Non mi interessa, va benissimo. No, se ma si vedono così anche in televisione nudi. Ma d'accordo, ma non serata, si può stupire. Non può mettere le foto nude? Non ho capito. Scusi, beh, prima di tutto è una persona. Ma lei, quelle foto lì erano incredibili perché, comunque, a parte le foto di Berlino, lei ha pubblicato delle foto con questo seno, con queste tette enormi, no? Enormi. Sì, come no? Sì. Rifatte. Sono il mio cervello, sono direttamente proporzionali. Ah, proporzionali non al suo sono cervello. Sono tette, fortunatamente c'ho anche testa. Lei l'ha rifatte le tette, signora? Sì, per forza. Sennò, altrimenti. La tetta no, ma le tette sì. Vabbè. Quanto ha pagato per rifarsi, signora? Costa un po'. Sì. Che ne so, 10, ma 15. Ma che bisogno 20? Ha di essere no, così? Meno 5-6 mila. Mi dica. Poi a me hanno fatto uno sconto. Mi dica, quant'è? 5 mila? Che si è fatta? La sesta, sì, la settima? Sì, quella cifra. Il suo marito è contento che lei mostra le tette così su Facebook? Ma certo, perché ma al mare certo, quante ma persone... Ma non è normale! Basta! Ma avete rotto i coglioni con questa storia che è normale! Ma cosa normale? Normale nel mondo di Cruciani è normale! Scusi, se lei vede in rete ci sono anche le foto del ministro dell'istruzione Giannini con il seno di fuori. Ma non è che lei ha mostrato... L'è stata beccata per caso, perché magari era su una spiaggia per i fatti suoi? Ma come è un po' diverso, scusi? Ma lei mostrate proprio, insomma, io sarò all'antica, ragazzi miei. Perché quelle del ministro Giannini sono piccole, le mie sono grosse, che differenza c'è? Sono sempre signora tette, mia, non aggravi la anche situazione. Anche voi avete bevuto alle tette di vostra madre. Ma non aggravi, professoressa. Anche il Papa ha detto che le donne si possono tirare fuori le tette in chiesa. Professoressa, per non aggravi la situazione. Ma dai, ma non vi mettete contro il Papa voi. Siete più moralisti di tanti. Beh, il Papa che ha detto adesso, scusi, Papa. Il Papa ha detto che le donne che devono lavorare possono tirare fuori le tette in chiesa. Vabbè, ho capito, però. È normale che la professoressa col marito... Voi dovete studiare. Ma guarda che è incredibile, incredibile. Ma sono strano io, figurati. Cioè, sarà il professore di latino che tira fuori l'uccello e tanto chi se ne frega. E va benissimo. E a Crucioni va bene. Il professore di latino, rosa, rose, rosam, rosa, tum, fuori l'uccello e va tutto bene. Ma ragazzi miei, in che mondo vivete? A scuola non va bene. Ma l'insegnante di latino che su Facebook tira fuori l'uccello... Io non ho fatto vedere le mie tette a scuola. Ma se il professore di latino vuole andarsi a fare un viaggio in una spiaggia naturista e vuol tirare fuori l'uccello, e se lo fa quanto vuole. Ma basta, siamo nel 2016. Ma con tuo marito, con tuo marito, scusami. Non sarà mai un nudo. Anna. Allora facciamo come gli iraniani che coprono le statue. Ai serva Italia di Dolore Ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta. Dante, non guarda, donna di provincia, ma bordello. Sono io la sua Beatrice. Dico con grande rispetto, se mio figlio avesse l'insegnante di greco e di latino, magari, amico mio, che nel tempo libero magari, postasse le foto del suo regale a Augello su Facebook, qualche piccolo dubbietto mi verrebbe. Perché l'esibizionismo non esiste. La signora Anna è un esibizionista. Guarda, è un esibizionista. Basta che lui non venga a vedere la mia pagina. Nessuno obbliga nessuno ad andare a vedere le pagine degli altri. Signora mia, per lei è normale. È normale che suo marito è contento. Vuol dire che gli piace. Va bene. E suo marito è felice? Certo. Avere una donna vicino come me. Insieme a tuo marito, Anna, che fai? Tutto tranquillo, cioè, normale. Com'è il rapporto sessuale? Molto aperto? Sì, anche. Cioè, siete noi siamo paladini della libertà. Cioè, siete una coppia aperta? Non ci scandalizziamo più di te. Sì, mentalmente, certo, siamo molto aperti. Aperta anche a esperienze con altre coppie, con altre persone, o no? Non siamo certo dei bigotti e non ci vergogniamo neanche di quello che facciamo. Ma quello va bene. Siamo gli unici, è pieno di gente. Pieno di gente che fa cosa, scusa? Che fa scambismo, topless al mare, sì, che va nei locali, esibizionismo. Esibizionismo. Sì, è pieno il mondo, ragazzi. Tutto normale, tutto bellissimo. La novità è che la cara Anna Ciriani, qui presente, sì, sarà forse candidata a Pordenone, caro Parenzo. Forse, candidata. Esatto, con chi? Con i 5 Stelle? No, col centrodestra, se non sbaglio. Ah, col centrodestra. O no? Vediamo, adesso io, guarda, non ho ancora deciso niente. E me l'ha proposto qualcuno del centrodestra. Ma chi? Forza Italia? No. Forza Italia, ok. Guardi, ho lo slogan per la sua campagna elettorale, cara. Lei pubblica le foto del suo seno e il titolo è Mettiamole in comune. Bellissimo. Ecco, invece io ho fatto l'hashtag per far resuscitare Pordenone. Beh, certo, quelle tette farebbero resuscitare. Molto meglio, visto che ormai qua la città è morta. Io le ho viste su internet e francamente penso affonderei là dentro. Personalmente affonderei. Professoressa di lettere, benissimo. Va bene, Anna, ti abbraccio. Ti abbraccio. Viva la libertà! Grazie. Viva la libertà! Viva la libertà! Viva la libertà! Viva la libertà! E grazie a tutti, sempre avanti. Anche un piccolo bacino alle tette si può così leggero da lontano. Anche loro mi salutano. Grazie, arrivederci, grazie, ciao. Cruciani, la mia donna è stata catturata. È andata nella rete del ragno. In macchina da sola si sta sentendo la zanzara. Ok, sono andato in banca per aprire il conto corrente Crux, pagina Facebook, Inchiappettiamo Crux, è iniziato per la raccolta fondi, sono andato in banca adesso e serve un comitato perché un fondo eccetera, comunque lunedì mattina c'è il direttore, dovrei risolvere il problema e comincia, ti inchiappettiamo caro mio, popolo della zanzara non ti inchiappettiamo. Signor Cruciani, adesso... sono cazzi tuoi. Pensa tu, anche in Albania hanno aperto una società, un'associazione per raccolta soldi per la verginità di Cruciani della Zanzara. Cruciani, ti ascolto da San Diego, California. Il mio coinquilino indiano di altissima casta e con un dottorato di ricerca all'università di Cambridge vuole mettere $50 per vederti deflorato. L'ho trascinato giù nella fossa del guano con tutti noi. Ciao. Adesso pure l'indiano ci si mette, Parenzo, pure l'indiano, pure il signore indiano. Io, guarda, fossi in te, mi preparerei. Ma no, mi preparerei al peggio, mi preparerei ad affrontare questa cosa che hai lanciato. Sarà l'inizio della tua fine, di una nuova vita, di anche magari di una nuova stagione. Ma perché? Perché? Che c'entra? All'alba dei 50 hai lanciato questa cosa e va bene, insomma, ti staremo vicini, pubblicheremo le foto, staremo vicini. Ma no, poi ma nessuna foto. Ai tuoi amici e ai tuoi familiari avvenire... che dovranno affrontare questo scempio. Ma questo i miei familiari ormai sono già, come dire... si sono già resi, no? Comunque, mi pare che tutto sia pronto, ecco, mi pare che tutto sia preparato. Allora, ho letto oggi che in India dei pazzi scatenati che vogliono proteggere le vacche hanno fatto una specie di suicidio di massa, hanno tentato ingerendo dei pesticidi, perché pare che in uno stato indiano non si voglia riconoscere la vacca come animale, diciamo, privilegiato, come animale sacro, cose di questo tipo. Uno di questi è morto perché si sono quasi... hanno cercato di fare una specie di suicidio collettivo, no? In India, degli Hindu. Allora, va bene, secondo me, se fossero coerenti, questi animalisti estremi, questi vegani o come li chiamo io, i nazi vegani, dovrebbero fare lo stesso, cioè non hanno le palle per arrivare fino in fondo. Cioè questi qua che si oppongono, per esempio, all'agnello pasquale, perché non vanno loro a farsi triturare? A farsi spezzettare, a farsi tagliare a pezzetti per la Pasqua. Andassero loro al posto degli agnelli, ci sacrifichiamo noi. Quelli hanno le palle, gli indiani, gli indù, che si battono per una cosa per me folle, cioè per la parità vacca uomo. Perché per loro c'è la reincarnazione delle anime, no? La però hanno i coglioni, hanno i coglioni per inscenare una specie di suicidio di massa e uno di loro è morto in nome della vacca, adesso in nome dell'agnello andassero a prendere i vari martani, nazi vegani e compagnia cantante, tutto questo esercito di persone che affolla le trasmissioni, le emissioni radio, eccetera, andassero a farsi triturare. Farsi triturare al posto degli agnelli, questo voglio. Se hanno le palle lo devono fare. Andassero a farsi ammazzare al posto degli agnelli, cazzo. Donato da Como, vai. Donato, non è Donato da Varese, Donato da Como, vai. Vai. Sì, alza la voce, alza la voce, dai, forza. Ciao, allora ascoltami bene, Cruciani. Tu, io non ho niente contro di te, sì. Ti seguo molto volentieri, sono quasi sempre d'accordo con le tue idee, al contrario di Parenzo. Vabbè, allora? Sei partito con la trasmissione dicendo, parlando di questa foto, di questo cane a confronto con i bambini. Certo, invece di occuparsi della fame nel mondo si occupano della fame degli animali alcuni, no? Ma, cioè... ma tu pensa, talmente siamo scemi, intelligenti, no? Che appunto potremmo risolvere benissimo il male di quel bambino. Sì. Siamo talmente intelligenti noi uomini che non lo facciamo, quindi cioè, cosa basterebbe? Basterebbe un nulla per un governo, qualsiasi altra istituzione potente. Che c'entra questo adesso? Spiegami. C'entra perché tu praticamente mi stai dicendo che sta foto, questo cane rappresenta praticamente lo squilibrio che c'è. No, ma ho detto semplicemente una cosa, c'è la foto che mi hanno mandato divisa in due, da una parte c'è un bambino africano scheletrico e dall'altra un cane che mangia i dolci praticamente all'interno di una specie di festa di compleanno dei cani. C'è qualcosa che non torna, amico mio, no? C'è qualcosa che non torna. Cioè, ci sono certe società in cui c'è un cane e viene fatto al cane una specie di compleanno con i pennacchi, con i palloncini colorati, con i dolci e con le pizzette. E dall'altra c'è un signore scheletrico, un bambino c'è qualcosa che non va o no? C'è o no? E che cazzo, dai. Allo? Je suis Elenoir. Je suis arrivé en Italie, combien 10 ans? Je veux seulement balayer. Ragazzi, io voglio finire in bellezza questa sera, caro Parenzo. Cioè, ti voglio dare tutto. Andiamo questa in sera. Francia, che questa succede? Sera Hollande? Ti do tutto, ti consegno in mano Francia, tutto. In Francia. Ho un personaggio straordinario. Per chiudere in bellezza, una serata che è stata contraddistinta dalla presenza della signora Luxuria, dalla presenza di una porno prof, dalla presenza di tanta bella gente. Italia vera! Italia vera, adesso, non l'Italia finta. Però, non l'Italia finta però, della politica. Ci sono sicuramente. Non l'Italia finta, però... imbellettata della politica che spara le cazzate. Questa signora che ti sto presentando, la chiamo chiamo signore, cioè si chiama Eleonore Ferruzzi, un nome anche nobile per l'imprenditoria italiana, se io vogliamo. Io conosco Eleonore Casalegno, Ferruzzi. Signora Ferruzzi, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Come stai, cara Eleonore? Come va? Benissimo. Eleonore, allora, Ferruzzi, specifichiamo che, allora, Ferruzzi è una, praticamente posso dire, una delle transessuali, Ferruzzi? No, delle, una delle transessuali più famose d'Italia, si può dire? Certo. Se ti paragono ad F. Ball, per esempio, tu come reagisci? Ma io non, sinceramente non so chi sia, non la conosco nemmeno. Ma poi com'è? Sinceramente non so di che cosa possa essere famosa. Beh, è una conosciuta per essere una famosa transessuale. Sì, ma perché... Perché, ma per cosa? Perché si prostituisce. Ah, ecco. Ah, tu dici per questo. Beh, ma allora ce ne sono tante che sono famose come lei. Basta aprire internet. Ah, tu dici che è famosa solamente perché si fa pagare. Questa è la sostanza. No, non è quello. Io penso, io credo che ognuno nella vita può fare quello che vuole. Sì. Assolutamente. Sì. Anche io ho fatto quel lavoro e non ho nessun problema a dirlo. Ah, ti sei prostituita anche tu, eh? Non sto a giudicare o a criticare quel tipo di lavoro. Sì. Se così possiamo chiamarlo. Beh, è un lavoro, sì, certo. Sì, sì, sicuramente è un lavoro. Però che cosa che non ti sta bene della signora F. Ball? Mi infastidisce il continuo propagandare e associare continuamente, ripetutamente, ovunque, la transessuale alla prostituzione. Cioè, ti dà fastidio, il fatto che F. Ball rappresenta un po' la fotografia del transessuale in Italia, una fotografia sbagliata. Cioè, guardi, io con questa persona non ho assolutamente niente contro, perché, ripeto, non la conosco nemmeno. Sì. Adesso, in questo caso, è lei, potevamo parlare anche di un'altra persona, indipendentemente. Sì. La guerra tra le transessuali. No, ma che guerra? Non c'è nessuna guerra. No, guerra no. Io sinceramente... No, ma come la consideri una persona squallida? Come la consideri? No, ma squallida assolutamente no. Cioè, per arrivare allo squallore sono ben altre cose. Non quello. Mi infastidisce solamente il propagandare continuo e l'associare continuo e totale della trans alla prostituzione. Cioè, vi fa fare una brutta figura, dai, vi fa fare una brutta figura. Mi infastidisce, perché comunque esistono delle transessuali italiane, ma straniere, perché non stiamo a fare... discriminazione, perché non mi piace, non sono la persona proprio che sa queste cose, che hanno dei lavori normalissimi. Ne conosco Ma tu che fai adesso? Scusa, dopo esserti prostituita, come hai detto, per un po' di tempo, che fai adesso? Ma io sono ricca. Ah, sei ricca? Ah, benissimo. Sei molto ricca, non hai bisogno di lavorare, no? Ferruzzi. Sto scherzando. No, ma qui è tutta la verità, nient'altro che la verità. Sono molto conosciuta nell'ambiente LGBT. Sì. Ho fatto questo pezzo e praticamente vado, giro ospite in tutti i locali d'Italia. Ah, vai per locali. Serate per locali. Però sei ricca, diciamo, ti riesci a mantenere. Ma non è che hai guadagnato prima quando facevi la prostituta e adesso riesci? No, guarda, quel lavoro sinceramente non mi è mai piaciuto. Beh, sto parlando di molti anni fa. Si guadagna però, amica mia. Non mi interessava cioè l'ho fatto per un breve periodo, ma sinceramente non mi è mai interessato farlo. Senti, ti voglio fare una domanda, cara Eleonore. Ma tu ti troveresti a tuo agio a crescere un bimbo? Cioè, a crescere un bambino? A fare la mamma di un bambino? Sì, perché no? Perché no? Adesso, ma non per il mio discorso di identità sessuale, no. Sì. Adesso come adesso io non sarei pronta, perché ho tante tu potresti, cioè ti sentiresti in grado, tu transessuale, diciamo, ancora non operata, diciamo la verità, cioè ancora il pisello, diciamola tutta, di portare... Ma guardi, le dico una cosa. Sì. Eleonore Ferruzzi. Sì. Non ha sesso. Ah, non alla ha sesso. Gente, non importa. Questo è interessante, Cioè, per te esiste, per esempio, gli eterosessuali esistono? Io penso proprio di no. Ah, capito, in questo Parenzo? Periodo storico, secondo me, l'eterosessuale non esiste. Ah, l'eterosessuale non esiste. No. Questa è una teoria interessante. Parenzo, hai sentito? L'eterosessuale, secondo Eleonore Ferruzzi, non esiste. Vecchio mio, ecco, che cosa vuoi? Non ho neanche più la forza per combattere. Che cosa vuoi che ti dica? No, di qualcosa. Per te, siccome dico con Eleonore, calma. Perché non per esiste? Per te la normalità è una professoressa che mostra le tette su Facebook, un professore di greco che tira fuori l'uccello, una famigliola in cui c'è il marito che è consapevole che la moglie vanno a fare fare gli scambi, se lo raccontano alla radio. È normale e va benissimo che la signora Lenoir Ferruzzi, della grande dinastia di Ferruzzi, forse, no, non lo so, no. Per poco male, non lo so, la signora comunque Lenoir dice Ferruzzi, che l'eterosessuale non è sì. Che, ecco, questo qui è il mondo normale, che tu descrivi come normale. Io, no, sono, io alzo le manine al cielo e, no, e che faccio? Mi arrendo. No, io non sto descrivendo questo mondo come no, sta normale. Dicendo che l'eterosessualità non esiste. Perché non esiste? Spiegami, Lenoir. Perché al giorno d'oggi ci sono troppe stimolazioni, troppe pulsioni esterne. Sì, certo. Di conseguenza, un eterosessuale, sì, pur essendo eterosessuale, sì, capito, comunque le sue esperienze alla fine se le fa. Se le fa, per cui ormai l'eterosessualità va scomparendo, diciamola meglio, sì, così, va scomparendo. Diciamola. Assolutamente sì. Ma assolutamente questo non sto dicendo, sì, che sono tutti... infatti rimarremo minoranza. No, però tu dici che ormai... Poi, sono persone che appartengono alla vecchia generazione, sì, che hanno, cioè, altri tipi di vedute, capito? Ma sono molto, eccomi, più rispettosi qua, sì, rispetto a quelli di oggi, comunque. Sì, ma io sono, alla fine sono d'accordo con Lenoir, devo dirtela tutta, caro Parezzo, devo dirtela tutta e sono decisamente d'accordo con la signora. Comunque, tornando al discorso di prima, senti, tu quanto sei rifatta, Lenoir? Diciamo la verità, io dalla visto... testa ai piedi. Ah, te è completamente rifatta? Sì, io adoro la chirurgia plastica come forma d'arte, ma assolutamente non come forma correttiva. Cioè, come forma d'arte, cioè il tuo corpo è una specie di opera d'arte, diciamo la, sì, verità. Che poi potrà essere valutato, giudicato. Beh, sì, quello sì. Insomma. Come grottesco, a me non interessa. Lo so, però uno guarda questa. Le foto, se non mette paura, amica mia, fa così, oddio, che è? Oddio, che è così, no? Ma sinceramente, a me non interessa se loro fanno così. E comunque, la bellezza è solamente negli occhi di chi la vede, come la bruttezza e la volgarità. Senti una cosa, ma vabbè, come politico, per esempio, uno come Salvini ti può piacere? Papo? Sì, mi piace. Ti piace? Ti piace Salvini? Sì. Come mai ti piace Salvini? Non come uomo, eh? Ma anche come uomo, comunque. Anche come uomo, cioè te lo faresti? Vabbè, anche questo. Te lo faresti? Sì. Un bel porcone, comunque. Ah, un bel porcone. Sì. Beh, la signora Isoardi potrebbe sapere qualcosa. Da questo punto di vista, ma lasciamo perdere. Allora, ma perché ti piace Salvini? Beh, appartiene a un mondo completamente diverso dal tuo, no? Ma no? Sì, assolutamente sì. Però, ma cosa ti piace politicamente? A parte il fatto che è un porcone, dici tu, no? Che attira, sì, questa sua porcheria. Politicamente, cosa ti piace il signor Salvini? Beh, le sue idee politiche, come le manifesta, perché le manifesta... C'è la ruspa, molto, la ruspa, i rom. Molto vivace e colorito, comunque. Ti piace la ruspa, l'idea della ruspa? Non mi piace l'idea della ruspa. Ti piace che ti passi sopra, Salvini, che ti passi sopra come una ruspa! Io chiuderei qua, ruspa, vecchio mio, io chiuderei davvero con qua. La dinastia Ferruzzi chiudiamo la serata! Di più non si può dire, Eleonore, ti adoro, Eleonore Ferruzzi! Grazie. Rifatta dalla testa ai piedi. A lunedì, ciao.